24, la storia. Mi viene in mente che non è scomparso. È come se Corrado vivesse ancora. È talmente un personaggio familiare che io non sento la mancanza di Corrado, perché per me è come se vivesse ancora. Una persona che credo, non è per vanteria, ma che ogni figlio avrebbe voluto avere. Come padre. E anche come amico, forse. Io la ringrazio infinitamente per questa intervista. Spero che lei si ricordi che io sono Corrado che l'ha intervistata. Corrado Pane? No, senza pane. Giavino? No. Corrado senza pane? No. Ma lo sai che lei è simpatica? Lei è molto gentile. No, volevo dire, io sono Corrado e basta. Corrado. Senza nient'altro. Va bene. E basta. Senta, mica come volevo dire. Aspetti, c'è una cosa che volevo dirlo. Sì, senza, io sono qui a sua disposizione. No, lei, io ho sempre detto, Lutazzi è gentilissimo. No, guardi, questo no, va bene? Ragazzi, chiuso. Tante cose care, professore, tanti auguri. Arrivederci, signore. Sì. Signor Tortora, le Senta, per cortesia, io gliel'ho detto già anche prima, io non mi chiamo Tortora, non mi chiamo Noto, non mi chiamo... Sono Corrado, Corrado di nome. E Tortora di cognome. No, Corrado e basta. Corrado e basta? Sì. Scognomato? Lei è uno scognomato. No, mi precisi, scusi, scognomato, che vuol dire? Senza cognome. Come Lorenzo il Magnifico, Giovanni della Banderina, Corrado lo scognomato. Ma dico, qui se c'è uno scognomato, non so se rendo l'idea vero. Ma guarda un pochino. Io non so, mandano a intervistare un premio Nobel, niente poco di vino, a uno che non sa nemmeno come si chiama. Corrado e basta, o come lo chiama Totò, lo scognomato. Quella che raccontiamo oggi a Mix 24 è la storia di Corrado Mantoni, il presentatore scomparso nel giugno del 99, ancora nel cuore di milioni di italiani, così come la sua trasmissione più famosa, La Corrida, ovvero I Dilettanti allo Sbaraglio. Una formula vincente che vede protagonisti la gente comune, come ricordano Renzo Arbore, Gerry Scotti e Maurizio Costanzo. Me lo spiego col fatto che La Corrida è una formula eterna, Dilettanti allo Sbaraglio, L'ora del dilettante, è una formula eterna. Un po' tutti abbiamo guardato quella corrida, non tanto per vedere I Dilettanti allo Sbaraglio, ma per vedere soprattutto le occhiate che si davano Corrado e il maestro Pregadio. Quando lui guardava, i partecipanti alla corrida, mica li giudicava, li guardava. E nel guardarli c'era un'ironia pazzesca. Ecco, che strumento suona? Io faccio le pernacce sotto il braccio. Fa le pernacce sotto il braccio? Non mi è mai capitato di accompagnare un simile solista. Sì, ecco, sì. Allora, per me... Veramente, ecco, no. Posso controllare? No, un momento, la tonalità... Che cos'era? Era una cosa che fa... Era un si diesis. Il concorrente dello strumento ascellare andava a tempo. Mi pare che lui praticamente andava, faceva i rumori a tempo con una base che noi suonavamo. Mi sembra che fosse Romagna Mia. Sì, era Romagna Mia. E lui era trutti, Romagna, trutti. Tanti complimenti, le stringo la mano. Quale Tra le primi concorrenti della corrida si presentò questa signora indimenticabile, che ogni tanto viene riproposta ancora dalla televisione, questa signora che era praticamente il ritratto di Renato Rascher con i capelli lunghi, e cantava questa canzone che andava in voga, lanciata da Loretta Gozzi, che si chiamava Maledetta Primavera. Voglia di stringersi e poi fino a bianco fiori e vecchie canzoni. Maledetta primavera, me ne stai arrabbiata, maledetta, veramente era una primavera maledetta da lei, tremendamente. No, c'è amani, no, no, chiedo scusa, signore, le chiedo scusa, ma quei signoranti, devo dire, dell'orchestra, il maestro, non hanno attaccato bene venendole dietro. Adesso attaccheremo, c'era una piccola cosetta. Avete sentito Stefano Jürgens e Roberto Pregadio con la storia di un conduttore indimenticabile, Corrado Mantoni, su Mix 24. Continuiamo subito dopo la viabilità. Mix 24. La storia. Ogni tanto mi chiedono: lei cosa invidia a Corrado? Cosa vorrebbe avere? Ecco, quel pizzico di pepe, di sale, di cattiveria che lui riusciva a mettere nelle cose anche quando prendeva in giro qualcuno senza farlo notare. Ecco, forse se lo facessi io salterebbe subito all'occhio. Lui riusciva a farlo di taglio, come un tennista, come un artista. Aveva questo pizzico di amaro che non guastava. Bentornati a Mix 24. Era Gerry Scotti, erede di Corrado, nella conduzione della corrida su Canale 5, che lo definisce un maestro d'ironia, un presentatore inimitabile. E dopo Corrado davvero forse non c'è stato nessuno come lui. Ma chi era Corrado Mantoni e quali sono stati i primi passi di una carriera che lo ha visto protagonista per 40 anni sia alla radio che alla televisione? Corrado nasce il 2 agosto 1924 a Roma. Di famiglia marchigiana, papà tipografo, mamma insegnante, a 20 anni lascia la facoltà di giurisprudenza ed entra in Rai. Ce ne parla il figlio, Roberto Mantoni. Papà vinse un concorso radiofonico, sempre prima della guerra, come annunciatore radiofonico appunto nella sede qui di Roma. Una delle frasi più famose fu anche quando, diciamo così, il periodo più quando lesse la dichiarazione della fine della guerra. Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli angloamericani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita. Con la sua voce inconfondibile, nel 1945 Corrado viene promosso conduttore radiofonico e presenta le prime trasmissioni. Ce ne parla Renzo Arbore. La radio era Corrado, per la mia generazione la radio era Corrado. Era Nunzio Filogamo prima, ma insomma io ero piccolo con Nunzio Filogamo, e poi era Corrado, la voce di Corrado che arrivava da Rosso e Nero, una rubrica per la quale tutti tornavamo a casa, stavamo lì intorno alla radio, vicino, eccetera, era la voce di Corrado, che era la voce di un romano, proprio romano, un romano pacioccone, generoso, che riceveva tutti, che comprendeva tutti. Rosso e Nero, panorama di varietà. Presenta Corrado. Benvenuti al nostro spettacolo che è una scintillante rassegna in cui presenteremo il meglio delle riviste dell'annata. Ma la trasmissione che lo farà passare alla storia è La Corrida, che debutta nel 1968. A parlarcene Gerry Scotti. La Corrida, dilettanti allo sbaraglio presentati da Corrado. Complesso diretto da Roberto Pregadio. Regia di Riccardo Mantoni. Io faccio parte di quella generazione che correva a casa dal liceo, anzi dal ginnasio anche, per riuscire a sentire la corrida alla radio. Quindi di quest'uomo ho imparato prima a riconoscere la voce, poi chiaramente il volto, eccetera, eccetera, che era già familiare a mia madre, a mio padre, e poi è diventato molto familiare anche a me. Però la voce, questa voce così particolare, eppure così imitabile, perché poi nelle nostre rappresentazioni scolastiche oppure all'oratorio eccetera eccetera c'era sempre qualcuno che si proponeva come imitazione di fare quella di Corrado, e penso adesso, pensandoci bene, che forse ci ho provato anch'io. E buonasera e benvenuti anche questa volta alla corrida. Lo stupore della notte spalanca. A questo punto non poteva mancare Corrado. Eccoci, sorprese che eravamo sconosciuti. avessi una faccia, avrebbe la faccia di Corrado. Ebbene, va bene, per forza, la televisione proprio me l'ha fatta dimenticare la mia faccia. No, dimenticare che vuol dire? Perdere la faccia proprio? Sì, no, non ti devi denigrare, ma vuol dire che preferisci la radio questo? Ma io a dire la verità sono nato alla radio, non molti anni fa, sia chiaro. Comunque sono nato alla radio e naturalmente sono affezionato alla mia mamma. Mamma Rai. Era il programma Mille Luci del 1974. Negli anni 60 Corrado Mantoni arriva sul teleschermo con trasmissioni come L'amico del giaguaro, La prova del 9, La trottola. Il grande pubblico conosce anche il suo volto. Ora è uno dei Fantastici Quattro. Come si chiama lei? Corrado. Ecco, sì. Signor Corrado, di quale ramo televisivo si occupa? Ma io generalmente sono lì. Quando non sanno che fare, tappabuchi. Il tappabuchi, quella trasmissione con Tognazzi e Vianello. Sì, caro. Dalla voce al volto. Negli anni 60 Corrado diventa uno dei personaggi televisivi più popolari, insieme a Mina, Mike Buongiorno, Enzo Tortora. Sono gli anni del grande varietà televisivo, un varietà fatto di grandi autori, grandi presentatori, grandi attori e una grande Rai capace di produrre successi indimenticabili. Un patrimonio da conservare e perché no da riscoprire attraverso i racconti di chi quella televisione l'ha fatta, come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Penso che sia stato il personaggio televisivo più amato dagli italiani. E se lo meritava, perché era veramente... E ci siamo divertiti molto, molto. Abbiamo sempre lavorato senza avere mai un piccolo screzio. Io ho cominciato a fare la moglie con lui in radio, poi l'ho portata in televisione. Corrado era un attore, presentatore... improvvisatore particolare. Non so se vi è mai capitato di incontrare per la strada qualche vecchio amico, no? Abbracci, effusioni manate sulle spalle e poi inevitabilmente l'invito a seguirvi a casa dove volete dimostrargli che regnano sovrane la calma, la quiete e la tranquillità. Paura che tua moglie si rimproveri per avermi invitato a pranzo. Ma no, ma cosa no. Credi? Accomodati. Grazie, accomodati. Grazie. Ma cosa dico credi? Che mia moglie sia un drago volante, chiaro, io l'ho messa sotto, sai. Qui in casa la comando a bacchetta. Cosa fai tu? Raimondo, per piacere! E stai zitto! Che maniera! Che maniera! No, questo lo devo dire io. No, ma scusa, guarda che luce mi hanno dato. Va bene, ma non ha importanza, tanto non devi essere visto. Stavo dicendo del gioco, vi chiedo scusa, signori. Dunque, il gioco, ripeto, richiede soltanto delle doti di spirito, così delle doti simpatiche, perché i telespettatori che chiameremo a partecipare, dovranno così amabilmente scherzare con noi. No, ditemi voi se uno può continuare a fare questa spiegazione. Ah, ecco la luce, è arrivata la luce. Senti. Giocava sulla sua intelligenza, sulla sua rapidità di trasformare una situazione normale in una situazione comica. Quindi se anche tu sapevi fare l'imitazione, no, potevamo fare insieme. No, io non le so fare. No, Ma com'è che non sa fare niente? Eppure piaci, tu piaci molto, c'hai un indice di gradimento molto alto, ne pare 39, 40, cioè. Ah no, quella ha la febbre, 87, 88. Proprio forse perché non so far niente. Beh, vedi, il segreto di questo successo, io me lo spiego, lo so perché. Perché tu, vedi, fai il finto tonto. Il broccolo. No, fai proprio il finto tonto. Alla gente, al pubblico, piace la vittima, piace più scoprire che essere aggrediti. E così ha simpatia e tenerezza per il poveraccio. Ecco il segreto del tuo successo, tu sei proprio un poveraccio. Scusate, questo è Corrado. No, dico grazie della presentazione, Beh, non c'è di che. Dico, lo sai che tu devi cantare, no? Vuoi cantare? Io? E chi io allora? Non no, beh, so. Tu no, lasciamo perdere. Ecco, appunto, dico. Allora, no, lasciami lavorare. No, scusa, Andrea. Dimmi. No, se, ti fermi un momento, mi spieghi cosa stai facendo? Ma come lo stai facendo? Ma avete chiamato qui per fare il suo giuno? La grazia con la quale il disincanto, l'ironia sottile, come dire, proprio Roma, tu pas, tu las, tu cas, tu serem plas, tuttavia questa è la filosofia. E quindi lui poteva dialogare col grande attore americano arrivato da eccetera o con il cantante debuttante, aveva sempre quella sua cosa che sapeva che si faceva un lavoro che non era un lavoro, non si parlava dei destini della patria, adesso sembra invece che ogni volta sono i destini della patria in ballo. Io penso che i grandi di questo mestiere siano stati, sono e saranno coloro che poi, finito di lavorare, hanno una vita assolutamente loro, hanno i loro affetti, hanno le loro famiglie, i loro figli, i loro hobby, le loro passioni, i loro amici e possibilmente gli amici di quando non erano nessuno, perché avere ancora come amici quelli che avevi quando andavi all'oratorio, alle scuole medie, ti dà la misura di essere rimasto uno di loro. E quindi io penso che una caratteristica di un grande è la normalità, la sobrietà. Vorrei dire l'umiltà, però qualcuno deve averlo già detto, che per essere umili bisogna essere grandi, se no non vale. Avete sentito Renzo Arbore e Gerry Scotti con la storia di Corrado su Mix 24. Continuiamo subito dopo la pubblicità. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30. Solo su Radio 24. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24. Quella che stiamo raccontando oggi è la storia di Corrado, presentatore amatissimo per la normalità, la semplicità, la sobrietà e l'umiltà che lo hanno caratterizzato. E del resto Corrado era soprattutto un uomo che sapeva ridere anche di se stesso, un uomo che nella sua vita professionale è stato accompagnato sempre da bellissime donne, come confermano il figlio Roberto e Sandra Mondaini. A papà piacevano le donne. Lui piaceva alle donne, non so quante ne ha avute, se le ha avute, però non sono mai riuscita a scoprire niente. Scusa Corrado, se non sbaglio, prima ci davamo del tutto, ricordi quando facevamo insieme quella trasmissione in televisione Rosso e Nero? Ah sì, allora ti ricordi? Sì, e questo mi fa tanto piacere. No, non farmi così, ti prego, aiutami, non parlarmi così per questo prego, appartamento. No, no, vuoi proprio che io te lo trovi? Non dirmelo con questi accenti così dolorosi e drammatici. Ti prego, cercamelo. Farò tutto per te, per tutto, sì, tutto quello che vuoi. Ma nel suo cuore, su tutte, c'è la partner ideale, Raffaella Carrà. Sentiamola. Ci incontriamo al Teatro delle Vittorie e lui mi dice: io avrei un'idea, ci dovremmo dare, tu mi dai del lei e io ti do del tu. Ancora. Volevo morire. Dico, ma come? No, dico, guardi, senta, io sono grande, io sono oramai una donna, quindi lei non stia a guardare la mia faccia, io voglio essere la sua compagna, non posso essere la ragazzina ancora una volta che accompagna il presentatore. E lui, vabbè, non ti arrabbiare. E così cominciamo il nostro rapporto. Io ho detto, qui comincia malissimo la storia con questo signore. La festa, che splendida. La sua presa in giro era bonaria, la sua stima era profonda ed era un uomo pronto a qualunque evenienza. Non c'era un testo, no. Io da lui ho imparato molte cose. Cosa fai con questo bicchiere, scusa? No, scusa, io ho un problema. Ti dispiace assaggiare quest'acqua? Io non ho sete, e quindi... Beh, lo so, ma ti chiedo una cortesia, assaggia l'acqua, tu assaggi l'acqua se sei gentile, no? Scusa, bevi un po'. Com'è? Ma... Normale, sì? Sì. Come ti senti? Bene. No, ma io vorrei sapere allora perché il mio pesciolino rosso che vive in quest'acqua è morto, non ho capito. Ho imparato l'improvvisazione, ho imparato ad essere me stessa, ma soprattutto una frase lui mi disse durante la prima canzonissima: Raffaella, tu devi lavorare solamente con persone che senti vicino, non lavorare mai quando non senti la chimica, perché poi diventa un inferno. Io ho detto, beh, io ho cominciato con te, mi trovo benissimo, è tutto casuale questa nostra chimica, però... È stato un periodo fantastico. Sempre pieno di sorprese, Alighiero Cheno Schese cambia naso, cambia faccia, poi gesticola e si sbraccia, si trasforma là per là e Piero Angela ti fa. Io questo momento lo ricordo come uno dei più divertenti della mia carriera. Azione! Non è abituata. Scusi. Senta, io non sono mica un buffone qua, eh? Io sono un regista. Non è colpa mia. Quotato. Scusi. Adesso facciamo subito. Silenzio. Vi prego, anche voi, silenzio. Azione. Ti amo. Un abbraccio che non dimenticherò più. Venne Corrado al Televittorie. Non ho visto più niente, né il pubblico, né l'orchestra, né Dorelli, né niente. Gli ho dato un abbraccio e... Perché ho pianto? Pianto perché in quel momento ero ritornata al 1970 con il mio compagno ideale, che è Corrado. Hanno fatto delle edizioni di Canzonissima che sono rimaste nella storia. C'era una bellissima intesa fra loro. Raffaella aveva evidentemente un sentimento di grande rispetto per questo signore. Credo che siano delle pagine di televisione immemorabile. Ma Corrado non era solo un presentatore, un volto, era anche un autore vero che ha firmato quasi tutti i suoi successi televisivi con lo pseudonimo di Corima. Nascono allora successi indimenticabili che hanno fatto la storia della Rai come Domenica In. Ce ne parlano l'autore televisivo e amico Stefano Jurgens e l'annunciatrice Rosanna Vaudetti. Io feci la prima, mi pare, proprio edizione di Domenica In. Corrado inventò Domenica In, è l'inventore di Domenica In. Scriveva, che poi voleva dire essenzialmente Domenica in casa, era un programma nato contenitore per tenere compagnia alle famiglie. Il ruolo dell'annunciatrice un tempo era un ruolo molto contegnoso, un ruolo serio, e Corrado invece lo sfatò, insomma, quando ci invitava a Domenica In era sempre lì che si almanaccava, pensava ma che scherzo posso farle oggi. Tu dovresti fare proprio l'annuncio come la voce nella tempesta. Abbassiamo un pochetto le luci, creiamo questi effetti, mettiamo il disco di suoni, di rumori, di tuoni, eccetera. Anche voi, annuncia questo disco ring, così, sì, da qui. Trasmettiamo! Thank you. Va sotto il pianoforte, perché dico, ti si vede dappertutto, scusa, abbi pazienza, almeno un annuncio fallo sotto il pianoforte, che non ti veda nessuno. Nasconditi, vai giù, nasconditi sotto il pianoforte, ecco, vai lì, fallo lì l'annuncio, ecco. Oh, è possibile, si deve vedere sempre. Vabbè, forza. Anche da qua sotto va in onda la rubrica musicale Disco Ring. Cammino, mi siedo, respiro. Purtroppo andò bene un anno, andò bene due. Il terzo anno, durante l'estate, lui ebbe un incidente in cui andò malissimo a Dora Moroni. Avete sentito Giovanni Salvi, vice direttore generale della RAI dal 1989 al 94. Il 13 luglio del 1978, sull'autostrada di Civitavecchia, Corrado, insieme a Marina Donato, che diventerà poi sua moglie, e la valletta storica Dora Moroni, perde il controllo dell'auto. Dora Moroni viene sbalzata fuori dalla macchina e si salva per miracolo. A parlarcene Roberto, figlio di Corrado, l'amico Stefano Jürgens e la moglie Marina Donato. Quando siamo arrivati all'ospedale di Civitavecchia, e la cosa che mi disse, dice, guarda, Dora si è fatta male, era Dora Moroni che viaggiava con loro, cerca di starle vicino. Queste sono le prime parole che mi disse. Rimase molto deluso dal comportamento della famiglia, perché gli chiesero i danni, ci fu un'avvertenza legale, e insomma, al di là del danno economico e del danno naturalmente personale che ha subito Corrado, ebbe anche un dispiacere profondo. È stato colpevolizzato tanto, ne ha sofferto moltissimo, è tornato comunque a Dominica Inn con prima le due canadesi, poi con il bastone e poi senza niente. E perdonatemi se mi faccio prendere forse veramente da un pizzico di emozione, ma in questo momento sono autorizzato a dire che Dora Moroni sta seguendo la nostra trasmissione, la sta vedendo, e io mi auguro che possa divertirsi, perché mi dispiacerebbe farla arrabbiare. Quindi tanti auguri Dora da parte di tutto il nostro affettuosissimo pubblico. Ciao Dora. Grande successo di Dominica Inn viene bruscamente interrotto da quel tragico incidente stradale, e gli strascichi di quella vicenda segneranno Corrado nel profondo. Da quel momento, infatti, la sua ascesa professionale subirà una battuta d'arresto molto brusca. La Rai gli toglie Dominica Inn per passarla a Pippo Baudo, lo mette da parte e sembra dimenticarlo. È il momento più buio della sua carriera, ce ne parlano Stefano Jürgens e Raffaella Carrà. Dopo il terzo anno di grande successo di Dominica Inn, Corrado apprese dalla RAI che veniva sostituito da un altro conduttore, che sarebbe stato Pippo Baudo. La RAI in quel momento non offriva granché, nonostante i successi che otteneva Corrado. Forse non so se dirlo, ma c'erano le prime intrusioni politiche e quindi venivano spinti altri personaggi e Corrado veniva un po' abbandonato. Non c'è più niente da fare, è stato bello sognare, la vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. Mi telefona il dottor Salvi e mi dice, vuoi fare fantastico? E siamo nell'83, credo. Io sono qui con un pizzico di nostalgia. Allora ho detto, guardi dottor Salvi, io lo faccio se lo fa con me Corrado. E mi sento ancora a casa mia. Ho incontrato un altro Corrado, un Corrado più sensibile, più delicato. E io dicevo, ma come mai non è felice? Non era felice. Prima perché gli avevano tolto Dominica Inn in un momento molto delicato della sua carriera e questo aleggiava un po'. Me ne ha parlato così soffusamente, senza entrare nel dettaglio. Io non volevo fargli rivivere una cosa triste, però lo vedevo dai suoi occhi. Oramai lo conoscevo molto bene, questi due grandi occhi blu che che comunicano molto, in realtà avevano una specie di dolore nei confronti della Rai. Contemporaneamente a questo fantastico, Corrado venne interpellato da un certo cavalier Berlusconi, questo industriale di Milano, che aveva fondato questa televisione, e quindi decise di accettare la proposta. Ci mettemmo a pensare a mezzogiorno, la cosa più banale del mondo, e ci venne il titolo più banale del mondo, che era Il pranzo è servito, tanto prima del pranzo. Ricominciamo da capo e ricominciamo con un pranzo e servito del valore di 500.000 lire. Insomma, fu un successo enorme e che andò avanti per 20 anni addirittura. Berlusconi in realtà vide la puntata in onda e disse: me ne fa altri 500. Berlusconi avrebbe sempre voluto avere in trasmissione il prodotto della corrida. Nonostante mio padre fosse sempre stato contrario alla sua realizzazione televisiva, alla trasposizione dal radiofonico al televisivo. Avete sentito la moglie di Corrado, Marina Donato, e Roberto, il figlio. Con la storia di Corrado su Mix 24 continuiamo subito dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentornati a Mix 24, stiamo raccontando la storia di Corrado Mantoni. La Rai, come aveva già fatto con Mike Buongiorno, si lascia scappare non solo una colonna portante come Corrado, ma anche un format, un forum vincente ed eterno, la corrida, che diventerà appunto una delle trasmissioni di maggior successo di Mediaset. Per Corrado una nuova giovinezza, arrivano nuovi successi, nuovi riconoscimenti, una popolarità se possibile ancora maggiore, come spiega Gianni Ippoliti. La corrida televisiva, uno dei pochi esempi di grande successo di programma radiofonico diventato varietà. Alla base di questo la sua grande intuizione, quella, come abbiamo detto tutti, di far diventare protagonista la gente comune. Poi però, nel dicembre del 97, durante una puntata della corrida, a sorpresa, Corrado legge una poesia. In studio nessuno ne sapeva niente, neanche gli altri autori e i suoi più stretti collaboratori. E allora, in quei versi, c'è forse una premonizione. E adesso la corrida finirà, forse per sempre, forse. Chi lo sa, qualcuno, e questa è ormai un'istituzione, tra un poco ne farà un'imitazione. Pazienza, io mi sono divertito per tanti anni ed è arrivato il tempo di dare il mio commosso ben servito, ma chi lo sa se poi non me ne pento. È l'8 giugno del 1999 quando nella clinica Villa Margherita di Roma, dove era ricoverato per una neoplasia polmonare all'età di 74 anni, muore Corrado Mantoni. Lo so, mi mancherete, eppure tanto. E se c'è stato uno scemo del paese, mi ha insegnato, non sapete quanto, a sorridere e a non aver pretese. Dario Ballantini, pittore, imitatore, attore. Lei ha conosciuto Corrado, ma soprattutto ha debuttato in TV nel suo programma Ciao Gente. Sì. Com'è andato questo incontro? Beh, dunque, è stata una cosa per un ragazzo di 19 anni notevole, perché io con il mio collega di liceo facevamo delle imitazioni, degli spettacolini di cabaret. Corrado era approdato a Canale 5 con questo programma Ciao Gente, che era una novità, dove insieme a contributi da tutte le regioni, di personaggi sì, che portavano prodotti tipici, facevano anche esibire dei giovani talenti un po' presi in giro per l'Italia. E un nostro compagno di classe mandò la richiesta a nostra insaputa a questo programma, dicendo ci sono due ragazzi a Livorno che fanno delle imitazioni, eccetera. Ci chiamarono per fare un provino. Entrammo nella stanza, così con le nostre parrucche, le nostre valigie, e in una piccola stanzetta sul divano c'erano il fratello di Corrado, il regista, ci dice ok, fateci vedere cosa sapete fare. Quindi ancora coi cappotti noi gli facemmo il piccolo spettacolino. E poi andò bene, direi. E ci disse subito sì, allora vi facciamo sapere noi, preparate un numeretto così. La settimana dopo ci chiamarono e siccome piacque molto che ci fossero due giovani presi dal pubblico che facevano imitazioni di calciatori che allora non le faceva nessuno, poi l'hanno fatto in tanti, ma erano finiti i mondiali dell'82 e noi eravamo specializzati in Berzot, Paolo Rossi, Falcao, sì, qualcosetta vecchia tipo Totò, Fabrizi, così. Piacque così tanto che a Corrado e agli altri ci fecero fare 8 puntate, proprio un contratto addirittura. E poi da lì un po' è partita anche la sua carriera. Da lì è partita, anche se poi il mio amico ha smesso, quindi mi sono dovuto mettere da solo a fare di nuovo una vera e propria gavetta, perché lì era stato subito un salto di qualità improvviso e non eravamo molto preparati, ecco. Cosa le ha lasciato Corrado? Ma guarda, ho visto una grande professionalità, perché noi andavamo il giovedì in cui lui provava tutto il suo spettacolo, che era lunghissimo, con una precisione, una pazienza, una preparazione perfetta da uomo di mestiere, però voglioso di sapere cosa accadeva in tutta la puntata, proprio padrone della puntata, sapendo anche cosa avrebbe fatto la regia, a che punto sarebbero entrati gli ospiti. C'era pieno di ospiti, pieno di gente da tutti i paesi, ed era perfetto, capì un modo di lavorare che era veramente per niente casuale, ecco, a dispetto del fatto che sapeva anche improvvisare, eccetera, però si vedeva che lui preparava comunque una grossa struttura sotto, sapendo benissimo dove andava a parare a seconda di cosa sarebbe accaduto. Qual è il Corrado che preferivi, l'autore oppure in TV, in radio? Allora, in radio l'avevo ascoltato alla corrida con la mia famiglia ed era un mito, era comunque stato il mito televisivo per Domenica In, che comunque ha aperto le porte a questi contenitori domenicali, ma anche come autore non era male, cioè, però ecco, se ti devo dire, l'impressione che maggiore che ho avuto io è la comunicazione, il modo di comunicare in perfetto bilico tra essere popolare ed anche preparato. Perché era così unico? Secondo me aveva dentro di sé una fortissima conoscenza del mondo dello spettacolo in generale. Sì, lui faceva da trédunion, faceva da presentatore, ma avrebbe potuto anche recitare, partecipare a sceneggiature, cioè una forte preparazione, secondo me. Lei imita tanti personaggi, il personaggio che le piace di più imitare? A me, in vita mia in generale, Gino Paoli. Perché? Perché non so perché, secondo me è uno di quelli più riusciti, non so, per la vela malinconica, per la mia passione degli autori. Ci leggo anche Lucio Dalla. Grazie. Grazie. Le puntate di Mix 24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it, nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Rachele Bonanni, Gloria Guerrera, Manuel Guerrini, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.